21 grammi di felicità per uso personale. Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere. Ho consumato 21 grammi di felicità per uso personale, per andare via di qua senza più limiti, senza più lividi, un po' più liberi. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità. Loro con i paraocchi, noi con i paradenti, e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti. Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere. Ho consumato 21 grammi di felicità per uso personale, per andare via di qua senza più limiti, senza più lividi, un po' più liberi. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità. Siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità.